Proseguendo su Berachot 28a, abbiamo raccontato la storia della deposizione di Rabban Gamliel come Nasi del Beit Din HaGadol e ora è stato nominato Rabbi Elazar ben Azaria, la pagina 370, numero 1. Tana, la Baraita ci insegnò che Otto Ayom, quel giorno in cui fu nominato Rabbi Elazar ben Azaria e fu deposto Rabban Gamliel, Silkuhu le Shomera Petach, fu rimosso il guardiano che ci si trovava sempre all'ingresso del Beit HaMidrash, che lui e il suo, ora vedremo qual era la funzione di questo guardiano, non era una questione di sicurezza, venite nala emre shut la talmidim likanes, ed era stato dato il permesso a tutti gli allievi di entrare nel Beit HaMidrash, in quanto che cosa accadeva fino a quel momento, quando era Rabban Gamliel il Nasi, Shehaya Rabban Gamliel Machriz Veomer. Rabban Gamliel annunciava e metteva l'annuncio che diceva Kol Talmid She'en Tocho Kevaro Lo Ikanes Beit HaMidrash. Ogni allievo che nel suo interno, nel suo intimo, non è come il suo esterno, cioè moralmente la sincerità non è al 100%, allora lo ikanes le Beit HaMidrash. Lui non permetteva l'entrata nel Beit HaMidrash, quindi c'era una sorta di selezione e solo chi era ammesso veniva dal guardiano appunto fatto entrare. In quel giorno invece i Chachamim decisero di togliere questo bando, questa regola messa da Rabban Gamliel, infatti che fu deposto da Rabban Gamliel, e tolsero questa regola e quindi entrarono molti Talmidim nel Beit HaMidrash. 400. Ora, quanti erano? Ci sono due opinioni. Ahu Yoma, quel giorno i Tosfu sono fatti aggiungere Kama Safsale, molte panchine. Ok? Molte panche furono aggiunte nel Beit HaMidrash per accomodare i nuovi Talmidim. Quante furono? Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Peli Geba Abba Yosef Ben Dostai, Verabanan. Sono due opinioni, quella di Abba Yosef e quella degli altri maestri. Chadamar, uno dice i Tosfu Arbame Asafsaleh, che si sono fatti aggiungere 400 panche nuove. Chadamar Shevame Asafsaleh, un altro dice no, erano 700 panche nuove. In ogni caso era un numero molto elevato di allievi, di Talmidim, che entrò dentro al Beit HaMidrash. Quando Rabban Gamliel vide ciò, Va kachalsha da te di Rabban Gamliel. Rabban Gamliel si sentì giù, si sentì abbattuto, perché si disse, Amar, Dilma chas v'shalom, forse, che Dio non voglia, manati Torah mi Israel, forse sono stato io a far evitare lo studio della Torah all'interno di Israel. Cioè, ci sono così tante persone che vogliono studiare e io sono stato l'ostacolo che non gli ho fatto studiare. Si è sentito su ciò che era in passato, no? Su quello che era la sua politica nel far entrare nel Beit HaMidrash o nel non far entrare. Allora, la Gemara racconta, Achazulei Bechelme, che a Rabban Gamliel fu fatto vedere in un suo sogno, dopo, Hatzvechi Vare, delle brocche, delle brocche o delle botti bianche, quindi belle, pulite, nuove, damigiane? Cosa sono damigiane? Inseritori. Di cosa sono fatti? No, no, per capire, no, non è di vetro. Ok, bene. Allora, delle damigiane, delle brocche, dei botti belli, puliti, bianchi, ma col loro interno pieno di Demalian Kitma, pieni di cenere. Vuol dire, hanno fatto vedere a lui nel sogno, non essere così triste, così abbattuto, che non hai fatto entrare tutte queste persone, perché sembrano brave, ma nel loro interno non è necessariamente così. Ora la Gemara fa un appunto, cioè questo era per far calmare Rabban Gamliel, per non farlo sentire rattristito. La Gemara però dice, velohi, in realtà il sogno non dimostrava, non rispecchiava la realtà, perché la verità. Cioè fu fatto questo dall'alto solo per far star tranquillo Rabban Gamliel, ma in realtà erano allievi validi. Cioè in realtà la Gemara vuole confermare che non era così corretta la politica di Rabban Gamliel nel non far entrare tante persone che non era sicuro della loro sincerità, perché effettivamente tra di loro c'erano molti allievi validi, e come vedremo questo avrà anche un effetto su ciò che verrà adesso discusso nel Beit HaMidrash una volta entrano i nuovi Talmidim. Scusa, ma quando sì. Lui aveva dato questa disposizione, disposizione, aveva lasciato a ciascuno di valutare se stesso e decidere se entrare, o lui come faceva? O era la sua opinione su ciascuno che li teneva? Non, allora, come effettivamente avveniva la selezione. La selezione, diciamo, questo non lo so. Non credo che era dato solo alla decisione personale della persona, perché se una persona non è così sincera, allora non guadagniamo niente. Quindi sicuramente c'era qualche tipo di criterio, di criterio. Non so se era Rabban Gamliel personalmente, non credo che ha fatto tutto da solo, però qualcuno sì, se ne occupava. Potrebbe essere retaccio, cioè praticamente era un po' classista. Non è quello che la Gemara dice. No, chiedo. La Gemara dice Tocho che Barò, che era una questione di sincerità morale. Sì, no? Quindi, così come idea. Beh, diciamo che sicuramente non sarebbe dire di Rabban Gamliel che era classista, non direi. No, no? Come il sistema era classista. Non lo so, non lo so. Comunque vediamo che a questo punto si vuole togliere questa regola. E appunto si fanno entrare tanti Talmidim nel Beit HaMidrash, cosa che anche Rabban Gamliel riconosce che forse lui aveva sbagliato, no? Quindi questo se qualcuno ha dei problemi è il momento di non tenerlo lontano. Sì, sì, sì, c'è più giusto. Che ma infatti con l'ingresso di questi nuovi, diciamo, tra virgolette, tante cose sono state poi risolte. O dice Rashi, o dice, non dico io. Ok, adesso stiamo arrivando, stiamo studiando. Al numero 2, vediamo cosa è successo. Tana, la Braita insegna, Eduyot, il trattato di Eduyot, che abbiamo citato poco fa quando parlavamo dell'orario massimo di Mincha, abbiamo fatto una citazione della Mishnah del trattato di Eduyot, dove si parlava di 5 cose che erano state testimoniate, tra cui c'era l'orario massimo del Korban Tamid e il Ben Arbain, del Korban pomeridiano a cui corrisponde Mincha. E allora quel trattato lì, Bob Ayom Nishnet, è stato insegnato proprio quel giorno lì, cioè quel giorno lì si è formato il trattato di Eduyot, il trattato che raccoglie le testimonianze di tutti gli allievi, di tutti i Chachamim riguardo a ciò che hanno imparato, ciò che è stato trasmesso loro a loro volta dai loro maestri. E questo ha aiutato, come diceva Carlo, a chiarire tante cose che erano in dubbio. E la Braita aggiunge ulteriormente, la Gemara aggiunge ulteriormente e dice Vechol hecha de amrinan bobayom, ogni istanza in cui nella Mishnah o nella Braita si fa riferimento a quel giorno, bobayom, in quel giorno, che giorno era quel giorno, è questo giorno qui. Il riferimento a quel giorno generico è un riferimento a questo giorno qui in cui fu deposto Rabban Gamliel e fu nominato Rabbi Elazar ben Azariah e furono fatti entrare tanti Talmidim nel Beit HaMidrash. Ahu Yom HaHava, era proprio quel giorno lì. E la Gemara agisce, cos'è l'importanza di questo giorno? Velo Hayeta Halacha, non rimase una Halacha, Shaitat Luyah beVet HaMidrash, che era rimasta in dubbio nel Beit HaMidrash, Shelo Pershua, che non è stata chiarita quel giorno, cioè molte questioni potevano essere fino a quel momento irrisolte. In quel giorno lì, con l'entrata dei tanti Talmidim, anche questo, come dice appunto Rashi, contribuì a questa cosa che si andò più a fondo nelle discussioni e si arrivò a concludere molte questioni che furono pendenti, che non furono ancora chiarite, che erano ancora non risolte e in dubbio. Quel giorno furono chiarite. Ma non solo. Tutto ciò avviene nel momento in cui Rabban Gamliel è deposto, ma Rabban Gamliel partecipa comunque al Beit HaMidrash. Cioè Rabban Gamliel non fa l'offeso e va a casa, ma partecipa come uno dei normali Chachamim alle discussioni che avvengono questo giorno, allo studio che avviene questo giorno nel Beit HaMidrash. E questa è una grande dimostrazione di umiltà da parte di Rabban Gamliel comunque. Da dove lo vediamo? Lo vediamo perché è immortalato in una Mishnah dove si discute di una cosa che era stata appunto proprio discussa quel giorno e chi partecipa alla discussione? Proprio Rabban Gamliel e Rabbi Yehoshua. Di che discussione si tratta? Dice la Mishnah, citiamola, Ditnan, in quanto abbiamo studiato in una Mishnah, Boba Yom, quel giorno lì, e quindi già sappiamo a quale giorno ci si riferisce, questo stesso giorno, questa Mishnah è tratta dal trattato di Yadaim, Yadaim della purezza delle mani, Ba Yehuda Ger Amoni Lifnehem Bevet HaMidrash, venne un certo Yehuda, che era un ger, un convertito ammoni del popolo ammonita, visto che quello era il giorno in cui si scioglievano tutti i dubbi, venne lui e fece la domanda che riguardava la sua persona, questo convertito ammonita. Amar lahem, disse a loro, ma ani lavo bakahal, che regola, qual è la regola riguardante a me, che sono ammonita, convertito dal popolo di Ammon, se posso entrare nella comunità o meno. Qual è la domanda? La domanda è che la Torah dice che gli ammoniti e i moabiti non possono entrare Bakahal Hashem, non possono entrare nella congrega del Signore. Cosa significa? Non significa che non possono convertirsi. Potrebbero convertirsi all'ebraismo, ma non possono sposare una donna che è nata ebrea. Hanno questo limite. Allora viene questo Ger Ammonita e dice qual è la regola riguardante a me? Ok, la Torah dice l'Ammonita e il Moabita non entreranno nella congrega del Signore, nessuno dei loro discendenti, nemmeno la decima generazione, la Torah lo lega a come loro hanno trattato gli ebrei quando gli ebrei dovevano entrare nel Israele, nel libro di Devarim al capitolo 23. E allora lui viene e dice io sono permesso o non sono permesso? Scusa, qual è il dubbio? Se è scritto sulla Torah che non possono, per, qual è la domanda? Allora vediamo. Amar lei Rabban Gamliel. Rabban Gamliel disse, beh, la regola è Asur. Sei vietato dal entrare nel Kahal Yisrael, Atal Avoba Kahal. Tu hai questo divieto su di te che è scritto sulla Torah perché vieni da Ammon, il popolo ammonita. Invece, Amar lei Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua contesta questa decisione della Rabban Gamliel dice mutarata lavo bakal, no? Ti è permesso entrare nella congrega, nella comunità. Allora Rabban Gamliel dice scusa, ma è un versetto esplicito sulla Torah, cosa stai dicendo Rabbi Yoshua? Amarle Rabban Gamliel valo kvar neemar, ma non è forse scritto sulla Torah lo yavo amoni umoavi bikal Hashem, che l'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore? Allora Rabbi Yoshua dice, sì, certo che è scritto, però c'è un problema, e cioè la realtà oggi è diversa. Cosa è cambiato? Amar lei Rabbi Yoshua v'chi Ammon u'Moav bim koman in Yoshvin. Forse i popoli ammoniti e moabiti si trovano tuttora nella zona geografica di Ammon u'Moav. Quelli che vengono da lì oggi non sono gli ammoniti e moabiti originali, in quanto Kvar ala Sanherib Melech Ashur, Senacherib, il re di Ashur, il re di Assiria, ha conquistato tutte quelle zone, Ubilbelet Kolaumot, e la sua politica nel conquistare era di mescolare i popoli e le popolazioni, che ognuno non si senti a casa propria, sia ben sottomesso al nuovo impero assiro, faceva smistare le popolazioni da un luogo all'altro e viceversa, e così in questa maniera ha mescolato tutti. Sheneemar, come è detto, ve assir gevulot amim, ho rimosso i confini dei popoli, ve atudehem shosseti, e ho saccheggiato i loro tesori, ve orit kavir yoshvim, ho abbattuto coloro che risiedevano in roccaforti. Questo riporta le parole di quello che fece il re di Assiria nel profeta Yeshayahu, Isaia. E Rabbi Yoshua conclude il suo discorso dicendo Ve kol de paresh merubba paresh, fa riferimento a una questione, a un assioma logica talmudica, per la quale se un elemento spontaneamente viene a uscire fuori da una generalità, noi si presume che quell'elemento singolo spontaneamente uscito fuori proviene dalla maggioranza che compone quella generalità. Cioè, se abbiamo un grande gruppo composto da tanti elementi diversi, ma c'è un elemento di maggioranza, e spontaneamente, non se tu lo tiri fuori, ma se spontaneamente viene a uscire fuori un elemento da quel gruppo, si presume che l'elemento singolo sia derivato dalla maggioranza che compone quel gruppo lì. Allora, se noi consideriamo la maggioranza dei popoli, non possiamo dire che gli Ammoniti e i Moabiti sono la maggioranza. Ammoniti e Moabiti, applicato a noi, Ammoniti e Moabiti sono una minoranza nell'insieme dei popoli. E se a tutti questi popoli insieme, come una cosa generale, esce fuori una persona, non devo dire che lui viene dalla minoranza, da Ammoniti e Moabiti. Applico la regola col de Paresh, chiunque si distingue, chiunque si separa dalla maggioranza. Allora perché lo devo considerare un ammonita? Non sto dicendo che gli ammoniti possono entrare nel kahal, nella congrega. Sto dicendo che lui non è un ammonita, non è da trattare come un ammonita, e quindi può sposare chi, qualsiasi donna ebrea che vuole. Questa è la logica di Rabbi Yehoshua. Ok, in generale la logica di Kol de Paresh Merubah Paresh, che ogni cosa che si separa dalla maggioranza, appunto si applica in determinate situazioni, non è che si applica ad ogni situazione. Ma nel caso non si abbiano elementi che consentono di capire se quello che è uscito in effetti è una ammonita. Se ci fossero elementi per capire di quello... Allora se abbiamo motivo per dire che è una ammonita, allora non si applica questa regola. In generale questa regola non si applica a persone. Si applica a elementi taref mischiati dentro elementi kasher e così via. Normalmente viene dal permesso e il vietato in oggetti e non in persone, però in questo caso la Biosola applica anche alla persona del cosiddetto ammonite. Sì, lui viene dalla zona geografica Ammon, ma non c'entra niente con ammonita di una volta, e possiamo considerare che viene da una maggioranza. Quale maggioranza? Generica. Ok? Di nuovo, deve essere separato spontaneamente. Invece, allora, se io ho un insieme di elementi che c'è un miscuglio tra elementi permessi e vietati, ma non separati, tutti ancora mischiati, considero metà-metà. Devo considerare 50-50, logicamente. Ok, quindi questa regola va applicata solo quando è detto che si applica, non sempre si applica. Ok? No, è un baia le gayer. No. Il problema non è per il ghiur. Il ghiur, vabbè, si può fare ghiur di ammonita o moabita, solo che non può sposare. Lo yocholit chaten in bat Israel, se lo ghioret o lo bat Israel, una che è nata ebrea. Però fare il ghiur si può. Ken, mutarani la voba kahal, la pirush la voba kahal, ulit chaten in bat Israel. Ukvar ger, ukvar itgayer, katuv ger. È già ger. Si può intendere che quando si dice ammonita, come quando si dice moabita, si intende praticamente un discendente di Lot, praticamente in senso... Beh, tecnicamente il popolo di Ammon e di Moab discende da Lot, per cui, no? Per cui praticamente, diciamo... Ma non è per causa di Lot questa no, cosa. Ok. No, però intende, no? Quando dico una ammonita, si intende praticamente la popolazione che era discendente. È quel popolo di Ammon e Moab che nasce dai due figli di Lot, no? Sì. Ok, proseguiamo, se col vostro permesso. La discussione non è finita nel Beit HaMidrash. Rabban Gamliel risponde a Rabbi Yehoshua e gli dice: beh, tu dici che sono stati tutti mescolati, tra virgolette, va lo kvar ne'emar, ma il profeta successivamente nel Geremia dice v'acharichen ashiv etshevut bnei Ammon u'um Hashem, che il Signore ha detto che io farò tornare i prigionieri dei figli di Ammon, disse il Signore. Allora vuol dire che Dio li ha fatti tornare. Presume che è già avvenuta, che si è già realizzata questa profezia. In questo caso chi viene da Ammon è davvero di Ammon. E non abbiamo motivo per dire che è un miscuglio e quindi si separa da una maggioranza, eccetera. No, è un vero ammonita e non può sposare una donna nata ebrea. Allora Rabbi Yehoshua dice no. Amarlo Rabbi Yehoshua, Valokvar Neemar, è anche detto Veshavti e Cevutam Israel, è anche detto io farò tornare i prigionieri del mio popolo di Israele, che ancora non sono tornati. Vadain lo Shavu. E quindi questo vuol dire che anche la profezia che citavamo appena prima, anche quella non necessariamente è già stata realizzata. Quindi solo il fatto che ci sia la profezia non vuol dire che è stata realizzata. Allora vuol dire che rimaniamo con il senso generico della cosa, che chi si separa dalla generalità, applichiamo la regola che si separa dalla maggioranza. Allora quel giorno lì, Miyad Hitiruhu Lavoba Kahal, si fece il voto nel Bedin Agadol e si diede permesso a quel Ger Ammonita di entrare come qualsiasi altro ebreo nella congrega di Israele, prendendo appunto la posizione di Rabbi Yehoshua. E questa fu una delle cose che furono decise quel giorno nel Beit HaMidrash. Proseguiremo ancora il racconto la prossima volta, perché non è ancora conclusa tutta la storia che avviene tra Rabban Gamliel e Rabbi Yehoshua e l'ufficio del Nasi. Ancora c'è un po' da raccontare, se Dio vuole, la prossima volta.